maledizione. Eccoci, questo venerdì 1 giugno alle 6:14 minuti, ancora buona giornata da Anna Migliorati, copertina di prima edizione dedicata a una parata che alcuni non vogliono, che altri invocano, ma che intanto ha fatto le prove generali. Quel che sentite è quel che è andato in scena nella notte a Roma, via dei Fori Imperiali. Ci sono state le prove generali per la parata del 2 giugno. A Roma domani si sfilerà le prove, intanto ci sono state. Prima edizione. Eccoci con le prime pagine dei quotidiani di oggi, di questo venerdì 1 giugno. Prime pagine che sono un po' diverse questa mattina, scelte diverse per i quotidiani. C'è chi ancora decide di tenere nettamente in primo piano il sisma in Emilia, chi invece l'attenzione la punta più sulle questioni economiche e sull'allarme lanciato ieri dal governatore di Banca Italia Visco. Allora, carrellata di titoli come sempre. Corriere della Sera, sostanzialmente una doppia apertura questa mattina, la tragedia dell'Emilia, in un giorno 50 scosse, la terra non dà tregua, il titolo del Corriere della Sera, che però in grande evidenza mette anche troppe tasse, non si cresce, la relazione di Visco per il governatore, un carico fiscale così pesante può essere soltanto temporaneo. Il Messaggero, più o meno una scelta simile, due titoli di grande evidenza, nuove scosse in Emilia, caccia agli sciacalli, e poi il richiamo di Visco, troppe tasse. La Repubblica, Visco, tagliare spesa e tasse, l'Europa si spacca sugli aiuti alla Spagna, e poi un'immagine del terremoto con l'allarme sfollati, sono 200.000. Il Sole 24 Ore questa mattina sparisce dalla prima pagina il terremoto, mentre c'è l'intervento di Visco, meno tasse più Europa, le considerazioni del governatore, pressione fiscale a livelli incompatibili con la crescita, un fondo europeo per i debiti sovrani eccessivi, l'allarme di Visco ad aprire anche la stampa, il governatore di Banca Italia, sono troppo alte, così si blocca la crescita. E solo a centro pagina invece l'immagine dell'Emilia, l'Emilia che trema ancora con 2 miliardi di danni, così l'immagine del sagrato di una parrocchia deserto e un matrimonio spostato nelle tendopoli, un cartello così sull'immagine questa mattina sul quotidiano La Stampa. Allora, queste le aperture, la carrellata l'abbiamo fatta, allora andiamo a vedere un po' più del dettaglio e cominciamo allora dal Sole 24 Ore, dicevamo apertura dedicata nettamente alla relazione ieri del governatore di Banca Italia Visco, il commento è di Guido Gentili, a ciascuno il suo mestiere in tempi in cui non c'è più tempo, governatore Visco buona la prima, zero retorica, zero parole ad effetto per catturare un titolo, zero invasione di campo, zero verità di impropria supplenza, zero politica, zero sconti a chi che sia, nella stagione in cui un solo numero, lo spread, fa tremare non solo l'Italia ma l'intera Europa di ora in ora, stare coi piedi ben piantati a terra è un esercizio indispensabile. Pochi messaggi chiari ma precisi da parte di chi guida la Banca d'Italia. Così Guido Gentili, a ciascuno il suo mestiere, la crisi e l'Europa, e poi ancora il fisco, lo sviluppo, la governance bancaria, la liquidità con segnali di ripresa sul credito, insomma tutti i temi trattati ieri dalla relazione di Visco. A fianco sul Sole 24 Ore il rischio Spagna che pesa sui mercati e lo spread che sale a 467 punti. Apertura sullo stesso tema anche per la Repubblica, l'Europa si spacca sugli aiuti alla Spagna, anche questo viene messo in evidenza dal quotidiano di Ezio Mauro. E il commento sulla Repubblica è quello di Massimo Giannini, lo sguardo corto della politica, questo è il titolo, una crisi di gravità eccezionale come quella descritta da Ignazio Visco nelle sue prime considerazioni finali imporrebbe l'eccezionalità come paradigma della fase, per fronteggiare problemi eccezionali servirebbero leader eccezionali capaci di adottare soluzioni eccezionali, scrive Massimo Giannini. Invece in questa piega sconfortante della modernità non c'è quasi niente di eccezionale se non gli effetti della stessa crisi rovinosa per la vita di tante persone. così scrive la Repubblica. Cambiare, basta rendite di posizione, tutto il testo di Viscolo pubblica oggi il Corriere della Sera, il cui titolo, dicevamo, è "Troppe tasse, non si cresce". Per il governatore, carico fiscale così pesante può essere soltanto temporaneo. Il terremoto, le notizie sono diverse, l'attenzione, come sentivamo, è puntata su aspetti diversi della questione. Sulla prima pagina della Repubblica l'allarme degli sfollati, che sono 200.000, perché non ci sarebbero solamente quelli nei campi, ma i molti che dormono anche altrove, che un po' si arrangiano, tant'è che sentite un po' qui cosa scrivono nel racconto della giornata, della notte, di queste ore, sul quotidiano La Repubblica. Pubblica, bisogna arrivare all'alba per capire quanti sono gli sfollati. Vedi le case chiuse e le strade piene di auto, quasi sempre due persone per macchina. Questo è il racconto. Via da casa, si dorme in auto, non tutti hanno scelto di andare nelle tendopoli, ma di lasciare le loro case. Si moltiplicano le tendopoli fai da te. Per stare il più vicino possibile alle proprie case si dorme anche in auto, così sulla Repubblica. Ma c'è anche un'altra questione, che è quella del lavoro e quella degli sciacalli. Caccia agli sciacalli, il titolo che sceglie il Messaggero, che punta ancora l'attenzione anche sui posti di lavoro che sono a rischio. Quel tesoro perduto nelle fabbriche chiuse, scrive Renato Pezzini. A metà mattina i tecnici delle demolizioni irrompono nel cortile di un acetificio. Fermate tutto, bisogna scomperare, le ruspe si zittiscono, gli operai si allontanano, lo ha ordinato il sindaco di San Felice. Vale per le aziende del paese: prima i controlli dei vigili del fuoco, le certificazioni sulla agibilità, solo dopo si potrà tornare a parlare di ripresa produttiva, ma le urgenze del mercato possono aspettare. Ma ciò che accade nell'Emilia martoriata dal terremoto è che i morti cominciano a pesare, specialmente i 13 che erano tornati in fabbrica. Nessuno vuole avere sulla coscienza eventuali nuovi lutti. Le fabbriche restano chiuse, ci sono le proteste, l'economia ora si ferma, così su il Messaggero. Ma c'è anche un'altra questione, quella di un territorio che a questo punto è da ricostruire. Ne ha parlato ieri il ministro Clini. Allora facciamo una piccola pausa alla nostra rassegna stampa, poi sentiremo anche le altre notizie di oggi, per sentire invece anche le parole del ministro Clini ieri. Ho cominciato a parlare di un piano nazionale per la sicurezza del territorio a novembre, appena insediato, e contestualmente ai disastri che abbiamo avuto alle Cinque Terre, nella Lunigiana e in Sicilia. Certo, dobbiamo avere un piano nazionale per la sicurezza del territorio che duri il tempo che serve, almeno 15 anni, che sia sostenuto da investimenti privati agevolati e da finanziamenti pubblici. È una priorità, è una grande infrastruttura per la crescita del nostro paese. L'evento sismico degli ultimi 10 giorni richiama la necessità di questo intervento. E così dunque il ministro Clini. L'altra notizia che troverete in grande evidenza su tutte le pagine dei quotidiani, ancora il calcio scommesse. Allora, la prima pagina della Gazzetta dello Sport di questa mattina: caso nazionale, giornata di fuoco per gli azzurri, e Albertini che sbotta e dice siamo stufi. Che succede? Che Buffon, per il portiere della nazionale della Juventus, si parla di 1.585.000 euro ad un'agenzia di scommesse, anche se non è indagato. Invece a Cremona, per associazione a delinquere, è Bonucci, e Criscito dice da parte sua: non voglio essere io il capro espiatorio, siamo stufi anche noi, basta il titolo a chiarire il tenore. Il commento sulla Gazzetta dello Sport a firma di Luigi Garlando. Commento sul calcio che c'è anche sulla prima pagina del Sole 24 Ore a firma del nostro, possiamo dirlo, con tutti i diritti, del nostro Gigi Garanzini. Disinfestiamo il calcio prima che sia tardi, le puntate di Buffon e le parole di Prandelli commentate da Gigi Garanzini. Mazzini. In attesa di poter pesare finalmente i fatti, si possono cominciare a pesare le parole, così scrive Gigi Garanzini, lo sentirete ancora ai nostri microfoni. Notizia che dicevamo c'è su tutte le prime pagine dei quotidiani. Allora, Buffon scommesse per 1,5 milioni anche sulla Repubblica, scommesse milionarie, Buffon nei guai, scrive il Messaggero. Gli assegni di Buffon, scrive il Corriere della Sera. Altra notizia che trovate un po' dappertutto è il cosiddetto Family Day, l'incontro sul mondiale per la famiglia che comincerà a Milano oggi, con il Papa che arriva e trova un po' di respiro, cerca un po' di respiro dalle inchieste di Vatilix. E allora la storia la racconta Ezio Mauro sulla Repubblica: il corvo e Bertone, la guerra medievale all'ombra del Papa. Il volo del corvo sulle mura vaticane è in realtà soltanto il penultimo atto di una battaglia medievale spostata nel XXI secolo. Spettacolare per i media, infarcita di simboli come un romanzo popolare sui poteri occulti, clamorosa nel rovesciamento pubblico di quel segreto che è buona parte del mistero della potestà papale fin da Bonifacio VIII. E vi lascio, se volete, al seguito della lettura. La notizia invece di cronaca che trovate un po' dappertutto è quella della violenza a Cervia, ancora violenza sulle donne, uccide la ex e poi si spara nel Duomo. Il fatto terribile avvenuto appunto ieri a Cervia. Abbiamo ancora tempo, sì, ancora un minuto grosso modo ce l'abbiamo. E allora torniamo invece ai temi economici con un'altra notizia che trovate sulle prima pagina, Corriere della Sera e anche il Sole 24 Ore, che è la resa dei conti alle generali e per Sinnotto in bilico. La resa dei conti perché è stato convocato per domani un consiglio straordinario che potrebbe portare a un cambio della guardia, con uscita dal gruppo appunto di Giovanni Perrissinotto e la sua sostituzione invece con un manager esterno. Il nome più accreditato è quello di Mario Greco. La conta, scrive il Sole 24 Ore, il manager, Piazzetta Cuccia, mi sfiducia ma io non mi dimetterò. Il sì decisivo di Mediobanca, la svolta di Trieste, è il commento di Antonella Olivieri che trovate questa mattina su il Sole 24 Ore. E così la nostra carrellata termina qui, il nostro spazio è questo. C'è come sempre Alessandro Mira nelle 7:20, perché sulle prime pagine dei quotidiani c'è anche molto altro, andremo a vedere come sempre anche nelle pagine interne. Ci fermiamo invece qui, torniamo tra pochissimo con le notizie di oggi e poi andremo anche a sentire come ci si sta svegliando in queste ore nei campi degli sfollati dell'Emilia. Prima edizione. Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina a tutti da Daniele Biacchessi. Oggi è il 1° di giugno. Oggi è venerdì, ogni settimana a quest'ora c'è Piera Ceci con Scuola in controluce, il nostro focus sul mondo della scuola. Scuola in controluce. Siamo tutti fuori, stiamo cercando di prendere, raccogliere le cose necessarie ai ragazzi per mandarle a casa. Siamo tutti fuori, sì. Sono tutti evacuati, ragazzi, per adesso, siamo tutti fuori, è stata una bella scossa. Così ci raccontavano alcuni insegnanti di Modena subito dopo la scossa di terremoto del 29 maggio. Ragazzi tutti fuori, molti ancora non sapevano che poi in quelle scuole non ci sarebbero rientrati più, almeno per quest'anno scolastico. 19.000 gli studenti a casa nelle zone del sisma dell'Emilia, un centinaio gli edifici chiusi, ma il numero aumenta di giorno in giorno. L'anno scolastico ripartirà regolarmente in settembre, per quelli che non potranno concludere l'anno ci saranno in qualche modo scrutini regolari. Mirandola, Istituto Luosi, 4 scuole, classico, scientifico, professionale per il commercio e l'economico. 2 edifici, tutti inagibili dopo la nuova forte scossa del 29, che ha un po' sepolto le speranze di tornare subito sui banchi, come ci racconta il preside Giorgio Siena. Ma noi abbiamo tenuto i contatti sempre via mail e poi avevamo organizzato nel cortile della scuola un incontro, ricordo, 2 giorni prima del disastro del 29, che avevamo convocato alcune classi, avevamo scelto di fare con le quinte degli incontri con gli insegnanti al mattino nel giardino, nel parco della scuola, che ovviamente non era pericoloso. E per sono venuti studiare lì all'aperto? sì, all'aperto per prepararsi un po' all'esame, incontrare gli ultimi. Ecco, doveva venire una classe perché ne avevamo programmato, sono arrivate più di 100 studenti per parlare, per stare insieme, insomma. In quei giorni lì c'era l'idea che potevamo uscire dall'emergenza pian piano, insomma, c'era molto. Poi questa botta di 2 giorni fa è stata fatale, insomma. Cosa dicono gli studenti? Vorrebbero ritornare in qualche modo a studiare, no? Perché sarebbe anche un modo per riprendere una normalità. Il bisogno di normalità è molto forte, tant'è che gli studenti sono venuti tantissimi a chiedere di recuperare i loro libri sotto il banco, insomma, tanti modi. Poi dovevamo tenerli lontani perché poi l'edificio non era ancora autorizzato per l'accesso degli studenti. Poi l'altro grosso interrogativo è il futuro, perché le dirò anche una cosa molto bella, che io non posso fare il nome, ma siamo stati avvicinati da 2 aziende anche importanti che volevano fare una donazione di laboratori per la scuola, e stavo parlando proprio di quello al centro di Mirandolo quando è accaduto il secondo terremoto. Volevate una scuola più bella di prima, insomma. Sì, e poi ecco, se l'avremo sicuramente sarà più bella di prima. E all'Italia incontro luce, siamo di nuovo insieme alle 13.30 su Radio 24. Grazie Daniele Biacchessi, 6:38 minuti, seconda parte di prima edizione, ancora buona giornata anche da Anna Migliorati. Torneremo anche noi in Emilia, lo faremo tra pochissimo per sentire come è andata questa notte, altre 23 scosse, cercheremo di capire come ci si sta svegliando, come si sta cercando di iniziare anche questa giornata. Prima però andiamo a Milano, perché oggi arriva Papa Benedetto XVI, alla ricerca anche un po' di boccate d'ossigeno dai Corvi Vaticani, arriva a Milano e lo fa per la Giornata Mondiale delle Famiglie. Francesco Bondi. Ad accogliere il Papa a Milano, oltre alle folle dei fedeli, ci saranno 1500 giornalisti accreditati e più di 40 TV collegate in Mondovisione. Ma la visita di Benedetto XVI, dal 1 al 3 giugno, sarà un evento eccezionale prima di tutto per i milanesi. Il Papa sarà in Piazza Duomo e poi alla Scala. Sabato 2 incontri di massa, la mattina allo Stadio San Siro con i Cresimandi e la sera all'aeroporto di Bresso, in zona Parco Nord, per la festa con le famiglie. Sul palco con il Papa anche una famiglia terremotata. Domenica, infine, la messa all'aeroporto di Bresso, dove sono attesi almeno 1 milione di pellegrini. Sabato e domenica, le parti di Milano Nord al confine con Cormano, Bresso e Sesto San Giovanni diventeranno zona a traffico limitato, assieme ai 3 comuni. Nello stesso tempo saranno potenziati i trasporti pubblici, con oltre 3.000 corse e treni appositamente allestiti di Trenord. Tra sabato e domenica, inoltre, la metro resterà aperta tutta la notte. Così dunque a Milano con l'arrivo del Papa, e per le celebrazioni milanesi è stato anche composto un inno apposito per il Family Day 2012. A Radio 24 siamo in grado di anticiparvelo. Composto da Don Claudio Burgio, e allora lo ha intervistato per Radio 24 Armando Torno. Criteri innanzitutto liturgici, essendo un inno che poi confluisce nella celebrazione liturgica, per cui innanzitutto una grande accentuazione del testo. Il testo per un compositore di musica sacra è l'origine di ispirazione, la fonte di ispirazione, per cui grande risonanza data al testo, e la musica deve rispondere in qualche modo a questi requisiti, il fatto di essere un testo cantabile, percepibile e memorizzabile immediatamente, quindi un ritornello semplicissimo. Ci ha lavorato così molto tempo Don Claudio a questo inno? Soprattutto la stesura dell'organico che poi accompagnerà questo inno, quindi tutti gli strumenti, l'orchestra, fra l'altro l'orchestra La Verde che ci accompagnerà in questo evento, in questa esecuzione. È un inno molto semplice, in forma corale, per cui prevede davvero la possibilità che un coro anche semplice, normale, di parrocchia possa eseguire, per cui la strofa è una voce e il ritornello a quattro voci in maniera omoritmica, in forma corale, per cui devo dire è stato concepito proprio perché possa essere eseguito da qualsiasi complesso corale. Così dunque le anticipazioni di Armando Torno. A Milano arriva questa sera il Papa, primo appuntamento concerto alla Scala e poi sarà un intenso fine settimana. Noi però voltiamo pagina perché andiamo invece in Europa, andiamo in Irlanda. Ieri si è votato in Irlanda, si è votato per una questione che riguarda tutta l'Europa, vale a dire il Fiscal Compact. Oggi ci saranno i risultati ufficiali, però qualcosa già si sa questa mattina e allora saluto Laura Bettini. Buongiorno, sì, il Fiscal Compact, il patto di bilancio europeo, sembra essere passato a Dublino con un brivido fino all'ultimo sull'affluenza che è stata bassissima, attorno al 50%, affluenza alle urne degli irlandesi. L'approvazione si aggirerebbe con un attorno al 60% dei votanti, questo almeno secondo l'agenzia di stampa Reuters che cita fonti del governo. Come anticipavi Anna, i risultati ufficiali ci saranno però questa sera. Nulla poteva essere dato per scontato in questo referendum. L'Irlanda aveva già respinto in passato due eurotrattati, quello di Nizza e quello di Lisbona, e con il 20% degli elettori che alla vigilia del voto erano ancora indecisi e con cifre della disoccupazione tuttora ferme attorno al 14%, bene, il governo Kenny non poteva escludere che anche da questo referendum uscisse una spiacevole sorpresa. Favorevole al passaggio del Fiscal Compact era, oltre ovviamente al governo, in particolare la comunità degli affari, che nella vittoria del no vedeva un messaggio capace di dissuadere il ritorno degli investimenti stranieri in Irlanda, l'ex tigre celtica che si sta lentamente riprendendo. C'è poi da dire che il piano di salvataggio, il cosiddetto bailout deciso dalla Troica, cioè da Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale, scadrà nel 2013 e per allora l'Irlanda dovrà essere pronta a camminare con le sue gambe nei mercati finanziari, e la bocciatura del Fiscal Compact veniva vista come un aggravante, insomma, in questa situazione, come un modo per non uscire dalla situazione difficile economica irlandese. Tutto. E dicevamo, allora alle 9 comincia lo spoglio, in giornata avremo i risultati. Queste le anticipazioni, però insomma. Se fonti del governo sono attendibili, 60% sarà per il sì. Vedremo quanto saranno vicine le anticipazioni ai dati reali, ve li daremo naturalmente nel corso della giornata. Grazie nel frattempo a Laura Bettini. Prima edizione. L'Emilia Romagna non sarà lasciata sola, quei cittadini, quelle imprese, quei lavoratori, quei comuni, quei sindaci non sono soli, stiamo lavorando e daremo le risposte che un paese solidale e grande come l'Italia deve sapere dare. E noi le ripetiamo ancora questa mattina le parole del governatore dell'Emilia Vasco Errani, che ora è anche commissario straordinario. Questa è la sua promessa, noi ve la ribadiamo ancora questa mattina, in cui dopo una notte con altre 23 scosse andiamo a sentire come ci sta risvegliando in un altro dei paesi colpiti dal terremoto. Andiamo a Cavezzo, dove è già al lavoro Antonio Ciallella. Buongiorno. Buongiorno. Alpino e abruzzese, tra l'altro, che dunque il terremoto l'ha visto a casa sua, ora invece dall'altra parte sta dando una mano agli emiliani. Come sta andando questa mattina? Ma la giornata è buona, il risveglio pure. Adesso stanotte abbiamo fatto dormire i primi 170 persone qui al campo, che abbiamo allestito, e dentro questa sera di completarlo e far dormire gli altri 170. È vero che molti preferiscono dormire in macchina e che stanno così approntando delle tendopoli fai da te? Sì, molti vogliono mettersi delle tende vicino a casa, hanno paura di sciacallaggio, di non lasciare le case, e anche molti hanno case agibili, però con queste scosse continue nessuno ha il coraggio di rientrare. E quindi cosa ci sono? Tende nei giardini, macchine parcheggiate? Sì. Macchine sotto casa o tende nei giardini, c'è una costa a cercare delle tende, anche perché qua siamo 7.500 persone, le tendopoli hanno 400-500 posti. Senta, lei l'ha vissuto in Abruzzo, l'ha vissuto anche in casa sua, sì. il terremoto. Cosa si sente di dire agli emiliani? Come si vive il terremoto di qualcun altro dopo esserci passati? Purtroppo si può dire tutto, ma bisogna farsi coraggio. Cioè, lì bisogna perdere la paura di qualsiasi altra discorso, cominciare ad andare avanti e non pensare più che può succedere, se no se si vive con quell'incubo non se ne esce più. Superare la paura, avere anche il coraggio magari di entrare nella vostra tendopoli anziché stare in macchina, anche quello è uno scoglio difficile da superare? Sì, è anche quello, perché diciamo cominciarsi a ritrovare dentro una tenda con due nuclei familiari diversi, cominciare a stare dentro una tenda con altre persone che non si conosce è sempre un impatto diverso da quello che uno, la sua abitudine che aveva di vita. Voi state preparando le colazioni, sono pronte, si stanno svegliando? Sì, sì, le colazioni sono pronte, adesso cominciamo a servirle, torno alle 7. Chi è che arriva per primo, gli anziani, i bambini? Come funziona in questi casi? Adesso i bambini dormono, gli anziani invece sono svegli, diciamo, anche perché adesso le scuole non ancora ripartono, non ancora riparte l'attività normale, adesso che dopo il campo comincerà l'attività normale, che chi torna al lavoro, chi tornerà alle scuole, i bambini prima o poi, che sarà dalle 7:30 sarà movimentato. E voi, più calma. E voi l'avete visto anche a casa vostra. Grazie, così a Cavezzo in questi minuti, Antonio Ciallella, buongiorno. Buon lavoro soprattutto, buon lavoro in questa mattinata, lo lasciamo come sentivate a servire tra poco le colazioni per chi ha dormito nelle tende a Ciavezzo. Allora, difficile dare IBAN o conti correnti, però io ve lo dico, sul sito dell'Associazione Nazionale Alpini c'è un conto corrente dove versare, dove dare gli aiuti se avete voglia di farlo. Solo però un'ultima cosa prima di chiudere anche quest'oggi, un ultimo spicchio di quel che è successo questa notte. Questa non è l'Emilia, questa è Roma, via dei Fori Imperiali, una parata che alcuni non vogliono, che altri invocano, ma in che tanto ha fatto le prove generali. Quel che sentite è quel che è andato in scena appunto nella notte a Roma, prove generali per la parata del 2 giugno. Domani ci sarà regolarmente questo, quel che c'è stato nella notte. E con questo chiudiamo anche questa settimana di prima edizione. Un buon venerdì da Anna Migliorati, ci risentiamo tra pochissimo con GR24.